Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Tempi duri, non tanto per noi, che ne frega niente, nulla, zero. Mi dispiace dirlo, caro Parenzo, mi dispiace molto, molto dirlo, però su questa cosa su cui ci stanno sfracassando le balle da qualche ora, da quando sono usciti i risultati, soprattutto dell'affluenza di queste elezioni regionali in Emilia Romagna, sì, in Calabria, questa storia dell'affluenza, della disaffezione della gente alla politica, ci stanno facendo due palle così. Nelle democrazie normali, vota anche meno del 50%. Io l'ho detto 40.000 volte a New York, per esempio. Mi spiace ripetermi. A New York per il sindaco ha votato una minoranza. Nessuno dice, bah, c'è un problema di credibilità della classe. No, nessuno dice una cosa di questo tipo. E mi dispiace anche che quello che ha vinto giustamente e meritatamente, perché gli elettori hanno votato in quel modo, le elezioni in Emilia Romagna, il signor Bonaccini, dica che è una vittoria un po' mutilata, no? Riconosce la vittoria un po' mutilata. Ma quale vittoria mutilata? Hai vinto? Dovresti stappare le bottiglie di champagne? No. È un po' mogio la vittoria mutilata. Bisogna considerare il fatto che c'è stato un calo di votanti. Non bisogna considerare nulla. In democrazia si contano solamente quelli che vanno a votare, non ci sono chiacchiere, vince chi ha un voto, certo, in più, tutto, sì, il resto, tutta analisi, spostamenti di voti, va benissimo. Però sì, per carità, cioè, poi però, intanto buonasera a lei, buonasera, buonasera. Sono carichissimo su questa cosa, carichissimo. Buon inizio settimana, buon inizio signor Renzi, settimana, che sì, giustamente dice la bassa affluenza è un dato secondario. Ha ragione lui, nonostante il direttore del Corriere della Sera De Borte dica no, in democrazia. Beh, il politico dovrebbe porsi il problema, no, però. Che porsi il problema, amico mio. Fare almeno una riflessione. No, fa nessuna riflessione, ma capire perché lo sono andati a votare, perché ne hanno le palle piene gli amici emiliani romagnoli, ma inchieste giudiziarie che hanno coinvolto tutti fammi hanno coinvolto Renzi, in quella regione, fammi dai, Renzi, su, che banalità, su. Fammi sentire, fammi sentire. Il fatto che in elezioni regionali non ci sia stata una grande affluenza lo trovo un elemento che naturalmente deve preoccupare e far riflettere, ma che è un sicuramente secondario rispetto al fatto che se ne dica. Oggi non è che ci sono tutti hanno perso, non è così. C'ha ragione lui, secondo me c'ha ragione lui. Salvini, dopo la vittoria, perché di vittoria si tratta, senza annuncia dubbio che andrà in Marocco. Trionfo, direi. Annuncia che andrà in Marocco. Senti, andrà Marocco. In Marocco. A fa cos'è per l'esame là? Per evitare che la gente parta da lì. Per evitare che la gente parta dal Marocco. Io non so se potrà evitarlo. Comunque. Anche da piccolo leader di un movimento di opposizione, io ad esempio in Marocco ci andrò da qui a breve per cercare di discutere come evitare che la gente parta da là e quanto dobbiamo contribuire, perché non c'è niente di gratis. Dunque, nuova missione di Salvini, il Marocco. In realtà dalla Libia, dovrebbe andare in Libia, un po' più complicato, la Libia. Ma dai, Marocco, cosa va a fare in Marocco? Beh, vai in Marocco, vai cambia Marocco. Gente in Marocco, dai, è stato in Corea del Nord, adesso vai un po' in Marocco, la famosa democrazia. La cosa più incredibile marocchina è Grillo, no? Perché poi ognuno ha il suo metodo per calcolare i flussi elettorali. Grillo dice, in sostanza, come i politici della prima repubblica, è una cosa veramente da ridere, cioè veramente da scompisciarsi dalle risate. Cioè fa il calcolo sulle regionali del 2010, quando chiaramente il Movimento 5 Stelle era un movimento piccolo, ancora Grillo non aveva dato la spinta decisiva per entrare in politica, e dice che rispetto alle elezioni scorse ha preso più voti. Beh, ti credo, cioè, ha perso 2/3 dei voti rispetto alle europee, 2/3 dei voti, peggio di Forza Italia ha fatto. E sentiamo uno di quei dei suoi fedelissimi bolognesi, come si chiama? Bugani. Anzi, ottenere questo 13,3% è davvero un risultato ottimo, perché vuol dire partire con un piglio diverso. Senti questo Bonafede. Movimento 5 Stelle dal 6 al 13%, altre forze politiche in calo. Guarda, veramente c'è da scompisciarsi dalle risate su queste cose qua. Il Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna aveva preso il 6%, adesso ha preso alle ultime elezioni regionali, ma adesso ha preso il 13%. Il dato è oggettivo. Se guardiamo gli altri, se guardiamo le regionali, ma se guardiamo gli altri. Vai, mettiti a ridere, Parenzo, ti prego, ridi un po'. Perché... Ma no, ma sono come i politici della Prima Repubblica. Che avevano comunque in quelle tribune politiche della Prima Repubblica, avevano vinto tu, anche nella seconda, vincono sempre tutti. Non c'è mai nessuno che dice ho perso, e anche loro uguale. Dai, non come quelli lì. A me comunque continua a farmi impazzire questa cosa dell'afflusso alle urne. A parte che tutti dicono bisogna riflettere, ma che non c'è niente, no, ma sai da riflettere. Perché l'Emilia Romagna è sempre stata una terra in cui, a differenza degli Stati Uniti, dove per andare a votare il percorso è lungo, che devi andare, tirare la scheda, iscriviti alle liste elettorali. In Italia è sempre stato diverso, cioè per andare a votare ti arriva la schedina, cioè vai, hai il coso a casa, è un bene se la gente va meno a votare, non è un male, è un bene. Hai ragione, in parte hai ragione, vero? Non c'è più l'attaccamento al partito di prima, non c'è più l'attaccamento, è un bene. La gente se non vota non è solamente perché la politica fa schifo, è semplicemente perché va bene così com'è, evidentemente, la situazione. Chi non va a votare è sempre colpevole. E dunque la democrazia è importante, il fatto che chi vince lo fa anche con un voto in più, va bene, anche con un voto in più. Contano solo quelli che vanno a votare, il resto non conta nulla. Beh, certo. Allora, abbiamo con noi Maurizio Gasparri, buonasera. Molto bene. Buonasera. Si sta leccando le ferite. Si sta leccando le ferite, Maurizio. No, stiamo facendo una riunione, noi siamo così. Il giorno dopo si lavora, si fa una riunione, ci si organizza. Dice Parenzo che vi state leccando le ferite. Un po'. No, io sono all'Euro, sto organizzando il No Tax Day, basta tasse sulla casa, che faremo il 29 e 30 novembre qui a Roma, sono con i dirigenti romani di Forza Italia, come si fa nelle buone famiglie, il giorno dopo un evento negativo, ma si imbocca le mani, che si ha da fare, senza piangersi addosso. Vabbè. Ne abbiamo viste di migliori, insomma. Beh, ecco, appunto, ne avete viste dei migliori di giorni. Però scusi un attimo, signor, però prima di parlare di politica, c'è questa cosa incredibile che lei promuove il boicottaggio nei confronti dei prodotti Barilla. Sì. Guardi, a me questa cosa di Barilla, che poi si deve a voi che avete suscitato queste dichiarazioni, mi piace girare le scatole, perché Barilla è sempre stato un bel marchio familiare, dove c'è Barilla c'è casa, sì, tutti quegli spot belli, tutti fatti bene, curati. Dopo che lui fu attaccato, io ebbi un moto di solidarietà, perché certo. Di difendere poi che cosa? La famiglia naturale, il marito, la moglie, il figlio, quindi fu accusato, ve lo ricordate, noi lo ricordiamo, come ascoltatori. Sì. Poi dopo qualche giorno cominciò a balbettare, a precisare, e lì c'è la cosa, perché se uno difende un modello di società, insomma, deve avere un po' di dignità. Terrorizzato, secondo me, da quelli del marketing, dai rappresentanti, dalla filiera, dei venditori, ha fatto una sorta di autocritica. Adesso, dopo, quanto è passato? Un annetto? Un anno, mi pare, era già a settembre-ottobre dell'anno scorso, ha avuto un premio da non so quale organizzazione. Beh, è diventato praticamente il paladino del gay meno friendly. Meno male. Che dimostra poi che mentre gli eterosessuali non vanno in giro a dare patenti e riconoscimenti a nessuno, ho scoperto che ci sono delle organizzazioni, delle lobby di LGTB, come si dice adesso, LGBT, gay, sì, transessuali, che roba, che perché sta di, non lo so, mi dica lei che ne sa più di me. LGBT è lesbo, che significa? Lei non lo sa che vuol dire LGBT? Lesbiche, sì, gender, transessuali, cose varie, insomma, diciamo la cosa varie, cose varie, parliamo cose di persone, non cose, come lo dico, persone. Allora leghiamo persone omosessuali, che è la dicitura che usiamo più correttamente. Sì, vabbè, cose varie. Hanno una organizzazione di cui non ricordo appunto esattamente la sigla, sì, a nome del mondo delle persone omosessuali LGTB, o che dir si voglia, ha detto bravo Marilla perché si è adeguato e quindi ha avuto un no perché hanno dato anche dei soldi, perché ha dato anche dei, ha dato anche dei quattrini. Io trovo tutto questo francamente, insomma, uno deve essere, che ha fatto Marilla? Mica aveva fatto cose omofobiche, mica aveva parlato male di qualcuno, aveva difeso un modello. Allora io contesto anche queste aggressioni culturali, chiamiamole così, perché anche la legge sull'omofobia che si vuole vabbè fare, però adesso lasciamo perdere la legge. Se uno difende il modello che io lo chiamo tradizionale, perché poi anche questi di queste associazioni come sono nati? Perché un uomo e una donna un giorno o l'altro li misero al mondo. No, cioè, tu, lei dice gli stessi lei, gay, Parenzo Parenzo che io credo sia stato clonato in qualche laboratorio perché non poteva venire naturalmente così. No, è tutto naturale, amico mio. Origini naturali. Anche Parenzo potrebbe avere, lo dico scherzando. Anche tu, Parenzo, sei stato. No, Parenzo, figuriamoci. Anche tu sei stato. Può dire qualunque cosa, la battuta è molto divertente. E va benissimo. Peccato che Gaspare adesso interviene sulla una vicenda come quella della Barilla, no? Che non si è mai visto che un politico, ma quando perché? Un'azienda chiede scusa. Io dico, uno non compra. Rassegnati, è la pasta che piace agli frosci pure. Devi rassegnarti, Gaspare. Scusami. Un bel marchio. Mi dispiace che si sia piegato. Allora io non si è piegato. Personalmente ha capito la aspetta caso. fammi sentire, però di comprare un prodotto anziché un altro, scusi, la pubblicità si fa per dunque il risultato è che il consumatore, a me tutto questo pronarsi, questo pentirsi di difendere la famiglia come consumatore mi dispone. Allora come c'è la pubblicità che ti attira a comprare un prodotto, a me è successo, temo a tutti succede, da adesso in poi già da quando lui l'anno scorso ha fatto questo tipo di marcia indietro, io ho detto a casa mia non voglio prodotti in Barilla, sarò libero. No, però aspetta, no, assolutamente. Allora, no, però la cosa è questa, come consumatore. Però Gaspari, lei è anche vicepresidente del Senato. Ha scritto su Twitter che c'ho l'obbligo di no, ma assolutamente, figurami. Lei fa benissimo, secondo me, però la cosa è questa, lei dice non compriamo più Barilla dopo la marcia indietro, la marcia indietro di Barilla e soprattutto dopo il fatto che è stata l'azienda è passata da essere un'azienda, diciamo, che difendeva la famiglia tradizionale ad essere gay friendly, io non è che ce l'ho coi gay, però questa marcia indietro, questa patente che viene rilasciata, la trovo condizionante. Patetica, lei la trova patetica, dai, patetica, la trova patetica. Perché Barilla diceva Cruciani è un delinquente ammazzato, difendeva questo modello, il mulino bianco, era diventato un fatto tra virgolette culturale. Dunque adesso si può dire dove... Scusi. Allora io dico, io sono un consumatore e non me lo compro quel prodotto, la pubblicità è invita a non comprarlo, è invita a non comprarlo. Non me lo comprate, se ne compro un altro. Poi le faccio fare una risata. No, ho detto, dice, allora metto la De Cecco. Ieri uno mi ha scritto su Twitter, ma che faccio? L'acqua che bolle, che butto la De Cecco. Io ho detto no, perché la De Cecco, ma qui andiamo un po' più su. Che è successo? Molti anni fa, Scalfaro, le Scalfaro era in viso a tutti noi, ti ricordi? Sì, no? Che ha fatto? Che ha fatto? Andò a visitare la fabbrica della De Cecco, che credo sia in Abruzzo, e fece una specie di spot, fece una dichiarazione che andò in televisione. Guardi, io mangio sempre la De Cecco, ne sono un mangiatore accanito. E siccome Scalfaro a me ci ha fatto un sacco di danni, e anche sulla vicenda Stato-Mafia, Scalfaro vabbè, non c'è l'anima sua, io De Cecco non lo voglio più. Manco De Cecco. Beh, comunque la cosa è questa, che lei, che Gasparri dice non comprate più Barilla, questo è il punto. Io adesso sto andando a mangiarmi due tagli e fagioli lì al Melograno sotto Miglianico. Allora, i nostri amici di Famiglia Cristiana, Parenzo, sai che sondaggio hanno non ho visto, hanno promosso. Non leggo sempre Famiglia Cristiana. No, nemmeno Cristiana, io, però diciamo. da quando hanno fatto quella roba su di noi in cui ci vogliono processare al Tribunale Internazionale dell'AIA per istigazione all'odio razziale, hanno chiamato i loro lettori a esprimersi su un sondaggio. Il 73% degli italiani non vorrebbe che la figlia uscisse con un rom. Sono razzisti o hanno ragione? Beh, io credo che ognuno per la propria figlia vuole quello sondaggio che... Sondaggio di Famiglia Cristiana. Cristiano. Beh, sì, il 73% degli italiani non vorrebbe che la figlia uscisse con un uomo. Ma tua figlia, se uscisse con un uomo, ti darebbe fastidio, Parenzo? Ma mia figlia sta solo col papà. No, ma se, vuole, se tua figlia uscisse solo di papà. No, se tua figlia uscisse, problema, vabbè, perché dai, mia su. Figlia starà sempre solo col suo papà. Non dire stupidaggini, dai. Se tua figlia uscisse con un rom, saresti, di la verità, di la verità. Ma cosa vuol ho dire? Ho conosciuto, mi sono innamorata di un rom che vive in una baraccopoli. Vai. Saresti contento? Ma no, ma lo di trovo la verità. Ma lo trovo improbabile perché è lo improbabile, trovo abbastanza improbabile perché metti che così cresce in un certo modo, dice vabbè, mi sono innamorata di un rom che vive in una baraccopoli a Roma. Ma non mi pare un'ipotesi di scuola. Vabbè, cosa ho capito, dica? Allora però esprimi, sono sondaggi, no? Sono sondaggi. Ma non è un sondaggio stupido, si può dire la famiglia che sa che non hai il coraggio stupido di rispondere, ma non hai il coraggio che direi, di. Ma non beh, sei non una brava farebbe persona, non ti farebbe una brava persona e è un poveraccio, è un po' difficile, diciamo, no, ma dico se si innamora di un poveraccio, beh, va bene, c'è uno che è povero che non ma ha mezzi. Tu sei uno di sinistra, si deve esprimere bene su questo, devi avere il coraggio di dire sì, non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Che mia figlia starà sempre col suo papà. Vabbè. Premesso questo, allora, interroghiamo, io uno interroghiamo uno su questo sondaggio di Famiglia Cristiana anche il professor Gasparri. Allora, professor Gasparri, lei che dice? Io lui penso come Parenzo, voglio che mia figlia, che ormai ha 17 anni, quindi sticcherà il volo presto tardi, stia sempre col papà. Vabbè, però ho capito. Bravo, bravo. L'onestà della persona. Quindi se una persona onesta non ho nessun pregiudizio, sì. Dopodiché il contesto del paradosso del sondaggio espone a un rischio, però non è che tutti quelli che stanno rispondete sinceramente, dai, rispondete onesto, sinceramente. Poi è chiaro che ci sono io non vorrei, io non vorrei. No, questo non lo dico, se no poi dico qualcuno è razzista. No, io lo dico chiaramente, a me non farebbe piacere, che, punto. Avrei un soprattutto di cautela nel capire la onestà dei comportamenti. Vabbè, siccome siete percentuale. Come siete diplomatici? Come siete diplomatici? Gasparri, senta, dove la famosa pubblicità di Barilla era. Mi preoccuperei se si fidanzasse con un leghista, era dove c'è, esempio. Dove c'è? Questo sì, ma sei un cretino, dove c'è Barilla c'è casa. Adesso dove c'è Barilla c'è casino. In che senso? C'è confusione. No. C'è di confusione che non si capisce che tipo di famiglia casino, è. Come si dice a Roma, non fa poco affidalo. No? Cioè, senso, no? In che senso, cioè, che non, ti, non, si, non si capisce che tipo di famiglia è. Non si capisce. Se per questo ci sono pure quelli dei surgelati, se poi abbiamo un altro capito. Vabbè, la Findus, ma quella pubblicità con i gay. Vabbè, ma quello, perché quello lo possono fare, no? Anche, ma io non compro manco più Findus. Manco più Findus. Ma è che non mangia niente. È un obbligo, capisci? Un obbligo è una subordinazione. Io credo che non si deve discriminare nessuno, ma subire l'imposizione, il sentimento di Barilla. Ma scusa, allora Barilla, che, guardi, Barilla è stato un debole è stato. Si è, come dire, si è vergognato di quello che era il modello di quello che è, di quello che è, di quello che è. Si è vergognato di se stesso. L'azienda si esprimeva in quel modo, mica offendeva nessuno. Io non mi sono mai sentito offeso perché tornava la mamma, faceva la torta, c'era il figlio. È un modello di pubblicità, voglio dire, no? Come la Fiat lo faceva con Chiambretti, ognuno sceglie i suoi modelli di altivi, personaggi, insomma. Lui ha fatto una cosa per obbligo, diciamo la verità, perché quelli che cambiano una posizione perché trascinati da altri con le minacce, le polemiche, non mi piace, uno deve difendere la propria idea. Gaspari, però io avere un'idea turpe. No, certo, non ha offeso nessuno. Vabbè, ma lì si è piegato anche al marketing, dicevano che potevano perdere dei soldi, potevano perdere dei soldi. Però io dico una cosa, le faccio una domanda da tifoso della Roma, no? No, però sabato, secondo lei, quella squadra lì che lei non ama moltissimo, che è anche la mia, tra parentesi, quella con le magliette azzurre e i pantaloncini bianchi. Stavano fermi come dei dirigli. Se sono spostati, come dicono a Roma? No, io se sono scansati scena, ma guardi, lo dico anche da Roma, il primo gol dell'Atalanta c'era Cole, che è un nostro terzino che ha fatto il birillo, stava fermo lì, ma no, però parliamo della Lazio, perché dopo l'immobilismo di Cole sull'Atalanta ho visto che c'erano Tevez e Pogba, che già sono bravi di loro, non hanno bisogno, quelli con l'autostrada fermi, tipo, ma visto che cosa era. Vabbè, se sono scansati da vedere e rivedere, erano proprio fermi, cioè se sono scansati è forte. L'ho visti fermi io, se fossi il presidente, l'allenatore, se le farei due chiacchiere le farebbe, laziali. Ma lo dico a difesa dei laziali, che non devono essere come posso dire mortificati da giocatori mobili, come noi ci siamo sentiti da romanisti mortificati col la sera del Bayern. Sì, no, ma ho capito. Da rimandarlo da dove era venuto in Inghilterra. Comunque adesso, il signor Bianconi, il suo collega Bianconi dice che Berlusconi dovrebbe andare via da Forza Italia. Ha bevuto troppo? Questo. esagerato proprio da ha tipo. Bevuto? Ha bevuto troppo bianconi. Troppi bianchetti, troppi bianchetti. Va bene. Ciao Crucials. Ullala ragazzi, buonasera. Ogni tanto, Parenzo, si alza qualcuno dalla sua cattedra di professore e spara a zero contro questa trasmissione. È veramente incredibile. L'ultimo in ordine di tempo dopo Famiglia Cristiana è Aldo Nove, lo scrittore Aldo Nove. Sì, Aldo Nove. Aldo Nove. Allora, il quale, venerdì scorso, se non sbaglio, a un certo punto ha scritto: prenderò il taxi 5 volte al mese e 5 volte al mese quindi ascolto la Zanzara. Beh, questo è importante. Non so se Cruciani e Parenzo siano una sorta di culto unico per le auto pubbliche. I due conduttori sono abilissimi nel tirare fuori il peggio dai peggio ospiti, condendo il tutto con il peggio, con i peggio insulti dei peggio ascoltatori. Ovviamente il programma è ascoltatissimo perché informa, dicono i due. Mai detta una cosa di questo tipo? Abbiamo mai detto che informiamo noi? No, mai anche, detto. Ma mai a volte facciamo anche informazioni, sì, facciamo ovviamente tutto. Ma non è che cioè, non è che diciamo noi informiamo. Mai detta una cosa di questo tipo? Non è un telegiornale, un approfondimento. Ma informa di cosa? Scrive il signor Nove, signor Aldo Nove. Il signor Nove è un grande intellettuale, però. Un grande intellettuale, non esageriamo. Uno scrittore, punto. Ma informa di cosa? Forse nostalgia dell'oratorio, quando si faceva a gara a chi diceva più parolacce. Programma da vietare ai maggiori di 13 anni. Signor Aldo Nove. No, mi dispiace, sai perché? Perché Aldo Nove venne ospite quando lavoravo a Tele Lombardia con Funari. Sì. Beh, certo, ma è no, chiaro. No. Ma Gianfranco Funari. Facevamo delle puntate insieme. Beh, Funari non era proprio il principe. Ma sai, quando uno non sa. Funari non era. Non era quando uno non il principe sa dell'Accademia della Crusca. No, quando uno non sa dovrebbe quindi astenersi dal strano, dire. Perché no, dal uno dire che si contamina, minchiate. Non è uno snob in genere. Ma che cazzo dici, Pare? Ma che cazzo dici? Questo è Sir Razzi. Sir Razzi. Vorrei fare un appello, so che adesso mi attaccherai, Parenzo, per questo. Io devo dire due cosine sulla Lega, poi quando possiamo, sì, più avanti sì, nel corso di una puntata, di una ennesima baracconata. Che è successo? Messa, che è successo? Dopo me lo dirai. Messa in scena a Milano, una allora, baracconata. Vorrei dire una cosa ai signori amici che ci stanno ascoltando, al popolo della Zanzara, al popolo della radio, a Riccardo Fans Club di Roma, a tanti fans club che si stanno aprendo in ogni dove, in ogni dove. Dovremmo fare un'iniziativa, iniziamo così in maniera un po' soft, però vediamo come va la cosa. Di fronte a questi signori di Famiglia Cristiana, i quali scrivono che dovremmo essere processati non so dove, dal Tribunale Internazionale dell'AIA, dal Tribunale dei Giornalisti, semplicemente perché abbiamo mandato in onda una telefonata di un tizio che diceva delle cose orribili e lo abbiamo sottolineato. Beh, io vi do il centralino di Famiglia Cristiana, dove dovete ripetere semplicemente, registrando la telefonata ovviamente, ripetere questa frase che vi dirò. Il centralino è questo: 02 centralino di Famiglia Cristiana, 02 48 071 02 48 071, centralino dei signori amici, molto amici di Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana. Allora, la frase è questa: dovete semplicemente alzare il telefono e dire: pronto Famiglia Cristiana, bene, noi ascoltiamo la Zanzara e del vostro moralismo del cazzo non ce ne frega. Beh, non niente. Occorre dire proprio così. Sì, sì, occorre dire così. Noi basta dire: noi ascoltiamo la Zanzara, noi ascoltiamo grazie, la Zanzara amici. E del vostro moralismo ma del no, cazzo. Questo lo posso dire quei perdigiorno del fan club, lei come si chiama? Aspetta, del Riccardo, aspetta, questa è quello che dovete dire. Centralino 02 48 071 02 48 071, fammi prendere l'iniziativa, poi la critichi. Noi ascoltiamo la Zanzara e del vostro moralismo del cazzo non ce ne frega niente. Questo molto semplice, molto semplice. Agli amici di Famiglia Cristiana, un po' di vita non fa male, un po' di vita, un po' di movimento lì a Famiglia Cristiana, così animiamo un po', animiamo un po' la situazione. Animati, secondo animiamo me un po' la vita lì a Famiglia Cristiana, nella redazione di Famiglia Cristiana. 02 48 071, noi ascoltiamo la Zanzara e del vostro moralismo del cazzo non no, ce ne frega no, niente. No, non dite il moralismo, dite no, noi ascoltiamo no, la Zanzara. Ma scusa, voi questa no, è l'iniziativa. Bene così. No, no, no, no. Io emenderei. Diciamo, no, no, non emendate. Non emendate. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il centro-sinistra conquista con un largo margine l'Emilia-Romagna e la Calabria, ma crolla l'affluenza alla minoranza PD, un dato preoccupante. Renzi riflettere sull'astensione, ma è un problema secondario. In 5 elezioni regionali abbiamo vinto 5-0. Chi è contro le riforme valuti il suo risultato. Lega, secondo partito in Emilia, il doppio dei voti di Forza Italia. Salvini, risultato storico, male 5 Stelle. Ma Grillo, l'astensionismo non ci ha toccato. Solo l'8% in Emilia per Forza Italia, il partito nel caos. Fitto azzerare tutte le nomine. Replica Toti, tu dirigente da anni e anche ministro. Terni, mercoledì stop gli scioperi, gli operai tornano in fabbrica, Landini no ad accordi a tutti i costi, Del Rio parole preoccupanti, serve responsabilità. Il primo caso italiano di contagio da Ebola, un medico di emergency che lavora in Sierra Leone, in Italia stanotte, ricoverato allo Spallanzani di Roma. Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana della storia a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, le prime parole, meglio di come lo sognavo. Caro Parenzo, questa sera vedrai durante Piazza Pulita i tuoi amici rom che cosa hanno combinato. Mi avevano invitato ad andare stasera a Piazza Pulita. Ti dico che cosa hanno combinato i tuoi amici rom. Lo so, hanno aggredito la macchina, hanno lanciato delle cose contro la macchina di una collega. Ho chiesto di furti e roghi tossici e i rom mi hanno spaccato l'auto. Signora Francesca Mannocchi, inviata di Piazza Pulita, voleva semplicemente chiedere dei furti, di roghi tossici, domande, semplici domande. È stata aggredita, hanno spaccato l'auto. Le mie domande non sono piaciute, soprattutto quelle relative ai rifiuti e alla presenza di tutto quel ferro. Mi hanno consigliato di andarmene, di stare attenta. Qualcuno mi ha anche urlato in faccia: il servizio te lo faccio a letto. I tuoi amici rom. No, ma non è che sono amico dei criminali. I tuoi amici rom. No, vale il giochino. Non sono amico dei criminali. Vale il giochino. Non sono amico dei criminali. Nei campi rom c'è un'illegalità diffusa. Questo è il punto. Tenuta in piedi per anni dalla politica, quindi insomma. Roberto da Roma. Roberto, vai. Vai. Roberto, vai. Sì, mi senti? Sì, dimmi. Dicevo che penso non ha problemi, perché tanto il suo genero prossimo sarà, lo sa perfettamente che sarà un rom. Contento. Ma non ho capito, chi è che sarà un rom? Non ho capito. Il mio genero prossimo, dice. Vabbè, quello è un sondaggio, quello è un sondaggio, un sondaggio per cui il 73%, il 73% degli italiani non vorrebbe che la figlia uscisse con un rom. E io devo dare ragione a questo, perché bisogna dire la verità, bisogna rispondere anche col cuore, bisogna rispondere subito con la prima cosa che ti viene in mente, e la prima cosa che ti viene in mente è no. Punto. Ma infatti io mai, cioè poi ognuno fa come gli pare, però anche Parenzo non mi sembra che sia molto propenso. Ma dipende che persona è, non no, è che Parenzo sia Roma, ha detto un'altra cosa. Cioè. Parenzo ha detto un'altra cosa, che addirittura non vorrebbe che sua figlia uscisse con un leghista. No, questo, cioè, questo l'hai questo detto mi, prima. Sì, no, ma anche con un lepenista, certo, questo mi creerebbe un disagio. Se tua figlia uscisse con uno che a parte che è molto piccola perché ha 7 anni. Ma lasciamo vedere la tua figlia No, ma infatti sto al tema. Ma sì, perché mi creerebbe un grande dispiacere, perché considererei un lepenista un razzista, quindi mi darebbe molto, cioè vuol dire che non le ho insegnato, se tua figlia uscisse vuol dire che non le ho insegnato il rispetto e la tolleranza, che non le ho dato dei valori. Cioè io vorrei che mia figlia ricevesse quei valori che io credo siano. Poi dopo ognuno fa quello che gli pare, ovviamente, ma, e non la rinnegherei per nulla, non solo di quelli. Mi dispiacerebbe, tu dici ti dispiacerebbe? Sì, mi dispiacerebbe un po' che uscisse con qualcuno che fa le res gesta di buon anno o le res gesta. Pensa del signor Igor Jezzi, che se vogliamo fatto? Poi che andare nel merito di una vicenda di oggi, che dell'oggi, ha fatto? Che ha si fatto, è presentato in Consiglio Comunale a Milano con un burka, mettendo in scena l'ennesima baracconata del fatto? Carro. Che ha fatto? L'ho detto. Guarda i filmati che ci sono nella rete. Guarda i filmati. Vabbè, intanto sentiamo Marco da Mantova. Igor Jezzi. Marco Jezzi. Adesso lo chiamo Jezzi. Non è Mauro da Mantova. 1976. Chiamo Jezzi. Vai, Marco, dimmi. Igor. No, non ho capito la percentuale di quelli che vorrebbero che la figlia uscisse con il rom. 73 non vorrebbe. E sì, non lo so. È una domanda sciocca. Vabbè, sarà 27. Ma che shock. Ma adesso io voglio capire, se tu avessi una figlia e viene a casa con un rom, cosa fai? Ma cosa vuol dire? Ma che discorsi rispondi sono? Rispondi all'ascoltatore, rispondi. È un sondaggio del cavolo. Ma dai, io è un sondaggio del cavolo, bravo. L'hai detto, bravo. Del cavolo, cioè, bravo, l'hai detto. C'è quel genitore sanno di mente che vorrebbe che il proprio figlio ci Ma uno vuole per i propri figli il meglio, credo, no? Cioè, allora, che vuole, che sia una brava persona soprattutto, mi sbaglio. Sia essa di qualunque colore della Dunque, pelle. Dunque, hai detto la tua. Per te è meglio uscire con un rom che con un leghista. Ma no, questo non l'ho detto, un rom. Meglio una brava persona. No, no, meglio un rom leghista assolutamente. Mi piacerebbe se, se tuo figlio uscisse con uno della Lega, con una persona razzista, con uno della Lega, no, sarebbe impossibile. L'hai detto sarebbe prima. Tecnicamente è impossibile. Perché è impossibile? Sempre razzismo. Beh, perché non penso che mia figlia possa uscire con uno della che Lega. Ha respirato in casa, con non uno penso della Lega. Che, penso uno... che sia incompatibile con il suo sistema di valori, credo. Ma tu sei completamente pazzo, Lorenzo da Firenze, tu sei fuori di testa. Tu pensi che quelli della Lega sono degli estranei, no, sono qualcuno delle... è razzista qualcuno sicuro. Qualcuno che vive sulle nelle astronavi. Qualcuno è razzista sicuro. Ma gente normale, Lorenzo da Firenze è un razzista. Ad esempio. Ma io vorrei che tua figlia si fidanzasse con Bonanno, Lorenzo ma da Firenze. Sì, 17 sono. Anni per fortuna. Ma no, ma tua figlia dico così in generale, Lorenzo Firenze. Ma non lo farebbe ci mai sono, perché sai che vai, dimmi, un dimmi. Clima in famiglia che non è quello. Pronto, ciao. Ci sono io. Senti, ti volevo dire, io adesso vado a preparare la pasta per la bambina. Sì. Marilla e Findus. Bravo. Domani facciamo la punta di fatturato della Marilla, grazie a Gasparri. Non sono io un dipendente della Marilla, anzi. Certo. Allora? Ma sì, perché dai, lui offende la Marilla, io mi sento offeso da Gasparri. E perché ti senti offeso da Gasparri? Scusa. Ma che politico è Gasparri, vediamo. Ho capito, ha detto una cosa, siccome Barilla ha piegato la testa nei confronti delle associazioni gay, su questo però non c'è dubbio, sono scelte di marketing. Sono scelte anche di marketing, per carità, l'abbiamo detto più volte, lui dice io non compro, lui che è vicepresidente del Senato. Un senatore della Repubblica invita al boicottaggio, cioè, ma anche questo è normale, ma vi piace un mondo così, come dice Di Nolfi? Beh, a me non piace un mondo così. Ma no, cos'è che non ti piace? Marione, scusa, cos'è che dice non ti delle piace? Cose per me folli, ma quando Marione dice vi piace un mondo così, beh, a me fa schifo un mondo così, e c'è ragione, ma cos'è? Fa ti fa schifo che cosa? Un Gasparri senatore che invita al boicottaggio, ma che roba è? Ma è un centro sociale, ma lascialo fare al centro sociale il boicottaggio, scusa, ma no, fermi tutti, mi piace un mondo così, a me fa cagare un mondo così, un mondo così fa cagare. Voi siete una valvola di fuoco fenomenale, minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro e razzi e sgarbi cazzo tutta la vita, vi prego. Sono in diretta alla radio. Chi è? Sì. Chi ha chiamato? Grazie Mario, ciao. Con chi cazzo stai parlando? Scusa. Ah no, era Borghezio. Borghezio? Che c'entra Borghezio? Era contento? Forse si è sentito offeso per il fidanzato, non lo so. Chiamiamo questo Iezzi un attimo. Ma stai tranquillo. Qualcuno dice che dovresti fidanzare, che tua figlia si fidanzerà con un palestinese. Beh, sarebbe spettacolare, eh? Sarebbe spettacolare. Ma ma sai perché è stupida la questione? No, sarebbe perché... bellissimo. La figlia di Parenzo sposata con un palestinese. Ma sai perché è stupida la questione? Perché vorresti o no? Dimmi la verità, dimmi la sincera verità. Ma no, ma cosa c'entra? Ma uno vuole devi che sia una brava trasparente. Persona. Se uno si ama, allora, se uno si innamora, uno di vuole te, che la persona sia una però, brava persona. Ma questo è banale. Io parlo di sistema di questo valori, c'è cioè ogni famiglia. Questo è banale. No, ma io ti posso dire di più. Ma ogni dimmi famiglia la verità. Trasmetterà un sistema di. Ma se non vuole la distruzione dello Stato di Israele, potrebbe andare bene anche quello. No, ma di la verità, di la verità. Ma io dico la verità. La verità, la verità è che vorrei che. Non credo che tu saresti contento se tua figlia ti dicesse sto con un palestinese che vuole lo Stato di Palestina. Tanto starà con papà perché vuole meno. Vabbè, quello papà, va bene, d'accordo, questo, quello d'accordo. Questo però non saresti contento, dai. Non io saresti dico contento. Che vorrei che ma non i miei sei, figli. Ma perché due, non sei sincero su questo? Perché ti sto spiegando il punto di vista che non è nero o bianco. Non vorresti che io si sposasse con un palestinese. Dei valori per vabbè, quanto sia vabbè, ma quello, stupido. D'accordo. E vorrei che questi valori venissero presi vabbè. E quindi sarebbe impossibile, spero, per mia figlia fidanzarsi con un leghista, cioè o con un razzista. Penso che sia impossibile. E con un palestinese? Ma se li vuole bene, non vuole la distruzione, non è un violento che vuole la distruzione di Israele, va troppo bene. Banale, dai, Alessandro da Lucca, dai, risposta banale che non è quello che pensi. Alessandro no, da Lucca, quello dai. Che penso, ma assolutamente non è così. Ognuno poi deve fare quello che vuole. Ma... Alessandro da Lucca, dimmi. Ogni famiglia insegna il sistema di valori, credo. Appunto, quello che dico. Alessandro certo. Da Lucca, vai. Dale, volevo soltanto farvi sapere che facendo quel numero di famiglia Cristiana, come sentono il nome della zanzara, ci chiudono il telefono in faccia. E vabbè, meglio, registriamo tutto. Giusto, ragione, registriamo tutto. Bisogna fare però un po' i paraculi da questo punto di vista. Bisogna iniziare dicendo: ah, vorrei parlare con, e poi noi ascoltiamo la zanzara, del vostro moralismo del cazzo non ce ne frega no, niente. Ma perché bisogna dire questa parola? Questa è la frase magica. Noi ma è una frase alla zanzara, non è una frase offensiva. Noi ascoltiamo. Oddio, ma me la fai fare a me la frase o no? Noi ascoltiamo la zanzara, e del vostro moralismo del cazzo non ce ne frega niente. 02 48 071, registrate queste telefonate, se non volete registrare non registrate, dai. Alessandro, dunque, cosa succede se uno chiama il centralino dei signori amicissimi, amici carissimi di Famiglia Cristiana? Che succede? Come sentono il nome della zanzara, chiudono il telefono. Legittima protesta, non violenta, per carità, protesta non violenta, protesta non violenta. Beh, se non si può sbattere il telefono in faccia qualcuno, ma anche la nostra è protesta non violenta, però ci vogliono far chiude. Pietro da Bologna, dai. Pietro. Gabriele Milano, dai, forza. Ragazzi, stasera vogliamo mettere sta cavolo di linea o no? Gabriele Milano, vai. Saltato. Ci sono. Allora, pronto? Dai, dimmi. No, volevo sapere se siete due servi di potere o due imbecilli. Sì, ma tu devi chiamare da un telefono. Tu lei deve cominciare a imparare a telefonare. Ecco. No, però guardi, va bene tutto, ma lei deve cominciare a imparare a telefonare. Cioè, lei prende il telefono, fa 8, preme i tasti, se c'è il touch screen, e poi inizia e poi impara a parlare. Biologicamente parlando, se hai un grado modesto di adattamento all'ambiente, quindi l'opzione non te la do. Gliela do a Cruciani, che è più intelligente. Volevo sapere se viene insegnata a scuola, che cos'è la media statistica. Quindi, ma rispetto a cosa la media statistica? Gabriele, alla cazzata che avete detto prima sul Movimento 5 Stelle. Senti, il Movimento 5 Stelle ha perso si metta l'anima in pace. A me non me ne frega niente, tra l'altro. Se avesse vinto non sarei stato affatto scontento. Perché ce l'hai sempre in bocca. No. Ce l'hai sempre in bocca il Movimento 5 Stelle. In bocca c'ho altre cose, per fortuna. Il cibo. Chissà che cosa c'hai in bocca. Il pisello non ce l'ho in bocca. Forse ce l'hai tu, io no. No, quello no, però... Qualche altra cosa ce l'hai? Beh sì, certo, spesso la bocca si usa per diverse cose, credo, sì. No? Comunque, Parenzo è sappiamo chi è e che cos'è. Sì, no, non sappiamo, non sappiamo niente. Un imbecille. Ti hanno insegnato cos'è la media statistica? Ma che vuol dire? Gabriele, rispetto alle... Costini è costretto a prendere il 25% ogni no, regione. Non è no. A parte che il Movimento 5 Stelle ha detto che voleva l'obiettivo era quello di ottenere la maggioranza assoluta e governare il paese da solo. Dunque, ogni... Aspetta, Gabriele, ogni cifra che si ottiene elettorale inferiore a quello deve essere considerata, secondo quello che hanno detto Grillo e Casaleggio, una sconfitta. Ma a prescindere da quello, se uno calcola, certo, le elezioni regionali del 2010, quando non c'era la spinta di Grillo, ma e tutto il giorno. Ma c'è sempre stata, ma se, cosa dite? No, Gabriele, non dire stupidaggini. Si rassegni, si rassegni. Non fate parlare Parenzo, che biologicamente parlate un grado ma avete perso, si rassegni. Tornate nella rete, tornate nel computer, governa il computer dalla rete, dai, è più facile con un click. Fallo parlare, Gabriele, dai, dimmi. Su. È mediocre, non me lo fa parlare. Va bene, dai, forza, Gabriele, dai. Dal cervello. Quello è un idiota vero. Sì. Non lo fa parlare. Vabbè, idiota, va bene. Poi archiviata questa cosa qua, che Parenzo è idiota. Qual è la tua analisi, scusa, Gabriele? Analisi adesso. Analisi. Avete preso per il avete fatto le risatine con Gasparri, il servo di potere. E poi, risate su Gasparri sui 5 Stelle non l'abbiamo fatto. Risatine, comunque, no, non sì, sarebbe stato una. L'ho approvato in tutto quanto. Noi approviamo Gasparri, sì, ma veramente certo, non ci risulta. Lo chiamate, vi fate le risatine. Quando chiama qualcuno con il Movimento 5 Stelle è giù a dare colpi in continuazione al Movimento 5 no, Stelle. Guardi, Gabriele, quando... il punto fondamentale è uno, che il Movimento 5 Stelle, che lei, che nonostante quello che dice Grillo, nonostante quello che dice lei altri, ha perso le elezioni regionali. Punto, non è un dramma, si può riprendere, può ricominciare, cioè ha perso le elezioni regionali. Basta, punto, molto semplice. Certo, se uno fa il paragone col 2010, sicuramente ha preso di più, ma il 2010 non è un termine di paragone, l'unico termine di paragone che si può prendere, come sempre, come per tutti, sono le ultime elezioni, cioè le elezioni europee, punto, e prima ancora le elezioni politiche. Rispetto a quella ha perso credo 2/3 dei voti, molto semplice, ci sono le statistiche lì, ma io sto dicendo che è colpa di Beppe Grillo se gli italiani sono imbecilli, ma sarà pure se gli italiani sono imbecilli, perché gli italiani sono imbecilli secondo lei? Cioè la maggior parte sono imbecilli. Se continuano a votare Renzi che glielo mette nel culo con Berlusconi, o sono imbecilli o sono froci. O sono imbecilli o sono froci? Perché froci? Scusi, perché visto che a voi i froci li piacciono, allora. Ma perché a lei non piacciono i froci invece, Gabriele? A me, io sono sorcino, io. Lei che cos'è? Sorcino? Io sono sorcino, eh. E dunque che vuol dire? E quindi sono un amante di grado zero. Sì, no, ma quello l'ho capito. Dunque? Non ho capito, perché, dunque, perché dice che gli italiani che non votano Beppe Grillo sono o imbecilli oppure froci? Perché gli piace o prendono nel culo oppure... Ah, in quel senso lì, ho capito. Va bene, capito. Grazie. Mauro, ciao. Provincia di Treviso. Sì, buonasera. Ciao Giuseppe. Vai Mauro, dimmi. Volevo solo esprimere un giudizio in merito al discorso di Parenzo con il quale praticamente avevo esordito prima all'inizio della trasmissione. Sul fatto di dire che se lui avesse una figlia sarebbe contento o meno che fosse fidanzata con un rom. Niente, a mio modesto parere ritengo che Parenzo sia un pagliaccio, in quanto ha sempre sostenuto l'immigrazione, ha sempre sostenuto i campi rom, ha sempre sostenuto quello, e non ha il coraggio di dire che se sua figlia fosse fidanzata con un rom, poveraccio ricco che sia, gli dà fastidio. Ma dipende cosa vuol dire. Se vive in una baracca, a parte che mi dispiace e cerco di capire perché vive in una baracca, cioè mi preoccuperei per mia figlia, per le condizioni di lavoro, di vita di questa persona, ma non perché è rom. Cioè, questo che non riuscite a capire, perché questa è stupida la domanda, è solo questo. Cioè, se sua figlia si fidanzasse con un disoccupato, le dispiacerebbe? No, l'aiuterebbe probabilmente, no? Cioè, ma voglio dire, se sua figlia o suo figlio o sua nipote o sua sorella o sua madre con un secondo marito si mettesse con un, che so io, uno che non lavora da 10 anni, sì, che è disoccupato, l'aiuterebbe? La domanda, no? La domanda è chiara. Allora, la domanda è uguale. Cioè, la spero che la persona sia una brava persona, fine, sì, che sia ma una persona per bene, chiara. Che non rubi, questo dico. La domanda è chiara. Non si, siccome non si può a fare voi farebbe piacere se vostra figlia si mettesse con un rom, punto. Mauro ha risposto chiaramente. A me dispiace che Parenzo la pensi così, essendo un veneto oltretutto. Ma che c'entra Veneto o non Veneto? Che cavolo c'entra? Può c'entrare o non può c'entrare, personalmente però da Veneto mi dà fastidio che un Veneto la pensi in questo modo. Va bene, i Veneti non è che sono un'entità unita. No, è un popolo, ma scherzi. Sì, sarà pure un popolo, certo, ho capito, però non è che un popolo. Non è che devono pensare tutti allo stesso modo. Va bene, Luca Modena. Sì, pronto. Dimmi. Ciao, niente, volevo riprendere il discorso dei rom, questo è il mio pensiero, ve lo dico un concetto personale. Sì. Comunque sia, sono persone che sono disagiate, sono persone che non hanno voglia di mettersi a posto. Sì. E mi dispiace che le persone, come il tuo ospite, il tuo che c'hai di fianco a te, dice tutte queste belle frasi e poi sotto sotto non è sincero con se stesso. Nessuno di noi vorrebbe avere un parente di fianco a sé rom, ma non perché è un rom, ma perché sono persone purtroppo diverse da noi e non hanno voglia di diventare socialmente giuste per quello che può essere la nostra società e quant'altro. Sono problemi che abbiamo realmente. Va bene, grazie Luca, grazie, ciao. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Tesoro, sbrigati, corri in camera. Sì. Fai la valigia con sciarpe, guanti e scarponi da sci. Perché? Dove andiamo? Beh, in una concessionaria Subaru. Parti con Subaru. Chiedi un preventivo sulla nuova Subaru XV Adventure o su un'auto della gamma. Partecipa al concorso e prova a vincere una settimana in montagna e un mese alla guida di una Subaru. Vieni in concessionaria entro il 7 dicembre e scopri tutti i premi. Montepremi totale 9.660,65€. Regolamento completo e info su subaruadventure.it. Avventuratevi. Ormai solo Subaru mi regala un'avventura. La Zanzara. Che non ce la faccio più, io non vi sopporto. È un programma brutto, è brutto. Ottima trasmissione, sempre la visione. Anche se vi buttano il telefono in faccia, fottetevene, popolo della Zanzara. Il numero è questo. Martellate 02 48 071, centralino di Famiglia Cristiana, che vuole portare la Zanzara sul banco degli imputati al Tribunale Internazionale dell'AIA o non so dove e processarci per istigazione all'odio razziale. Avete capito? Sì. Voi dovete semplicemente pronunciare questa frase in maniera molto rapida per fotterli. Noi ascoltiamo la Zanzara e del vostro moralismo del cazzo non ce ne frega niente. No, del vostro moralismo. Il vostro moralismo del cazzo. Lascia perdere, meglio così, ti assicuro. Eccone un'altra. Ciao Marchi. Dice, guardi, tuo figlio maschio, vuoi che sposi il nipote Vanna Marchi? No, grazie. Cioè, non capito, tua figlia non vorresti che si imparentasse con la famiglia no, Marchi. Ma metti tuo figlio appena nato, no, io sono innamorato, mi sono innamorato del figlio del figlio di Stefania Nobile, tu cosa? Che cosa faresti? Ma io mi butto nel Tevere, della figlia di Stefania. Ma mi butto nel Tevere del figlio, ma dai, nel... su, non vorresti piuttosto di essere imparentato con la famiglia Marchi, ti butti nel Tevere? Matto. Ma nel Tevere con mi carico nelle spalle uno zaino pieno di meglio sassi. I rom delle Marchi, ma no, ma meglio i rom della famiglia Marchi. Diciamo che è uno scenario a perdere, è uno scenario molto a perdere, sei veramente, diciamo. Sei veramente di uno, è uno perché tu mettiamo che tu abbia un figlio maschio, ma no? Non me ne frega niente, guarda. E ti dice papà guardala, ma guarda che ti porta a casa anche una hai un figlio maschio, e magari ti porta a casa una ragazzina che dice ah guarda Giuseppe papà guarda la mia fidanzatina, oh che carina, come si chiama, Nobile, aspetta un secondo, Nobile, c'è anche la mamma e la nonna, entrano in casa, Giuseppe Cruciani, tu sei matto, un'esistenza con quelle lì. Ma io allora a questo punto, caro suocero Cruciani, caro, ma ti sei, ma un'esistenza così, ma io sei veramente un cretino, ma sei, ma poi ti rubano tutto a casa a certa volta. Allora guarda che ti citano, ti denunciano questo, eh. Ti vendo questo sale, dice guarda che è il mio, Cruciani dice no, questo sale è un sale che fa bene, dice ma scusa ma l'hai preso dal mio tavolo, non era del tavolo. Cioè, ti rendi conto che cosa? A Natale, la cena di Natale. Fermi tutti! Immagini solo una cena di Natale, no, con dai, i parenti. Su. Ma dai, ma no, ma siamo sinceri, scusa. Ma tu devi essere sincero pure con i rom. Cappone! Abbiamo fatto questo cappone a 40.000 euro! Cioè, scusi signora, ma scusa cara, ma sei, ti ho ospitato a casa mia. No! 40.000 euro! Ma scusa, ti ho invitato a cena per i 40.000 euro. Ma ti, un'esistenza così, oh! Dai, ma non è possibile, su. Abbiamo con noi uno che le dice chiare. Non capisco perché poi non se ne va a questo punto. Però dice che se ne deve andare un altro. E quest'altro non è uno qualsiasi, ma si chiama Silvio Berlusconi. Cioè è un deputato di Forza Italia che Bianconi fa il a Berlusconi. Vedi che fa anche che lì. Fa il? Fa il culo. Ah no, fa il culo a Berlusconi, no. Esagerato. Onorevole Bianconi, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Senta, io non ho capito la cosa, Bianconi. Perché compagno lei Bianconi. Dice deve andare via. Deve andare via, l'ha chiamata compagno Parenzo, è compagno Bianconi ormai, compagno. Vabbè, ognuno ha le sue debolezze. Si può, allora, si può sopportare anche questo. Perché lei dice che Berlusconi deve andare via da Forza Italia? Scusi Bianconi. Io faccio un ragionamento un po' più serio, dico. Noi siamo i rappresentanti del centrodestra. Sì, e abbiamo promesso certe cose agli elettori. Sì, ma le cose che gli abbiamo promesso è di fare opposizione quando comanda e governa il segretario del PD. Fra le cose che gli abbiamo promesso è di non sostenere il programma di governo del PD. Ma quello si è innamorato di Berlusconi, Bianco. Lei è rimasto indietro. Le cose che gli abbiamo promesso è quello di difendere e tutelare alcuni valori fondanti del centrodestra. Tutto questo va, Berlusconi non lo fa. Non lo fa per mille un motivo, perché gli piace Renzi, perché ritiene più reddituale andare d'accordo con lui, non lo voglio neanche sapere, non lo fa più. Sì. Quindi io e noi siamo in Forza Italia nel centrodestra e lui bisogna che si faccia il suo partito fuori dal centrodestra. E come lo chiamerebbe secondo lei il partito? Lo voleva chiamare Forza Silvio, lo può fare. Insomma. Cioè lei dice ci vuole un Forza Italia da una parte con quelli che vogliono fare l'opposizione. Lui ha le sue scelte, guardi che io non le critico, non le censuro e non dico che Berlusconi non è stato straordinario per il centrodestra, ci siamo parlati però più volte. È tutto finito, dice lei. Però se continua così è tutto finito. Poi oggi ho detto a uno, io canto la canzone Se vuoi andare vai, io non ti fermerò. Che canzone mentre, è? È una vecchia canzone, lei è giovane. Se vuoi andare avanti io non ti fermerò. Com'è è sta canzone? Di chi è sta canzone? Non me lo ricordo perché sono stonato, ma è tipo Betty Curtis, questa roba qui di quel tempo lì. Dall'Ala, non me ricordo, sono di quel periodo. Vabbè, mo adesso andiamo a recuperare. Però va bene, però invece Fitto canta Ricominciamo, nel senso che dice alzeriamo le cariche, va bene anche Ricominciamo, insomma, c'è bisogno di cantare per forza Se vuoi andare vai io non ti fermerò. Però lei dice la cosa più normale dopo quello che è successo, per le frasi che dice Berlusconi, per le cose che dice per esempio il suo amico Ennio Doris e tutto, è quella di dire vabbè Berlusconi senti fatti forza Silvio, esatto, e fai tutto quello che è opportuno. Mi sembra che se il giornale di famiglia Berlusconi che è un po' la nostra unità, cioè voglio dire il giornale di partito è ormai il giornale di Renzi, titola che il PD ha perso voti e che il centrodestra tiene, questo è il titolo sulle elezioni, sì. E poi titola che Ennio Doris dice che il patto del Nazareno deve essere conservato anche se è politicamente disastroso, in prima pagina. Io francamente mi faccio fare la banca intorno da Doris, ma la linea politica non me la faccio dare. Ma sa, a questo punto bisogna però essere chiari, caro Bianconi, e bisogna dire, Berlusconi in questo momento, anche prima forse era così, pensa soprattutto alla sua roba, diciamo, lo dica chiaramente. Questo lo dite voi che siete commentatori, no, io sono un deputato di Forza Italia, questo a me non me l'ha detto nessuno però pensa che sia così, diciamo la verità. Non lo so quello che io non me lo voglio sentire dire, la politica è un'altra cosa. Cerchi di capire la sottigliezza piccola che cerco di fornire. Beh, sì, però lei lo pensa, io non lo dico. Però non lo nega. Come? Però non lo nega. Non lo posso. E chi tasce, come lei sa, non può né non nega né conferma. Cioè il patto del Nazareno serve a Berlusconi per essere garantito? Questo le voglio chiedere. Il patto del Nazareno politicamente serve a Berlusconi a completare due convinzioni sue. La prima, che restando attaccato a Renzi comunque rimane nell'area di governo e comunque certe cose possono essere gestibili. Secondo, certe cose cosa? Certe cose che ministeriali, tutte quelle cose che quelle cose che riguardano le sue aziende, intorno al potere, insomma. Le sue aziende, dai. No, le sue aziende lo dice lei, io dico il potere. Vabbè, ho capito. La seconda questione è che il dire che fa le riforme insieme, e non è vero, lo fa tornare centrale e protagonista della vita politica. E questo è umano e comprensibile, ma tremendamente sbagliato. E la terza, secondo me, è che lui pensa che essendo fortissimo Renzi non meriti in questo momento dargli contro, ma cercare di attutirlo per poi passarlo in velocità quando è il momento. E anche questo è un errore micidiale da un punto di vista politico. Quarta cosa, ultima ma non ultima, è che a lui Renzi gli piace. Questo è il punto fondamentale. Cioè, per lui il leader ideale è Renzi. E lui è il suo figliolo politico. Beh, bravo, anche quello che avrebbe voluto avere, forse. No, questo non lo so, perché io della famiglia non mi permetto neanche di parlare. Vabbè, comunque non conosco nessuno. È il suo ideale, diciamo la verità, è il suo ideale. E diciamo che per lui è bravo, ecco, questo è il punto. Per lui è bravo, quello che dice gli piace più o meno. Gli piace. Poi dato che è più cattivo di lui, e questo secondo me su questo ha molta ragione. È molto più spregiudicato. Sì, Berlusconi è democristiano, uno che dà ragione a tutti, invece poi fa come gli pare, ti ride davanti, ti va una coltellata nel groppone. Democristiano tutto tondo, anzi democristiano di sinistra, che non c'è peggio. Appunto, vabbè, un attimo solo, ci fermiamo e poi ricominciamo con Maurizio Bianconi, che dice: Berlusconi, se continua così, in realtà lei non l'ha detto se continua così, bada via da Forza Italia, si faccia il suo partito, il partito personale di Berlusconi, ma non che prima fosse diverso, Bianco, secondo me, comunque ci sentiamo tra poco. La Zanzara, la prossima volta cattivi, se vuoi andare io non ti fermerò, col tempo passerà, l'amore viene e va, siamo ad alti livelli qua, so mai finisce così, ed io non posso salvare il nostro amore. Siamo al top, siamo al top, ragazzi. L'abbiamo trovata, Bianconi. L'avete trovata la canzone. Tony Cucchiara. Tony Cucchiara. Tony Cucchiara, ecco. Se vai, non ti fermerò. Dai. Bellissimo. Però scusi, Bianconi, la realtà è che lei vuole negare un fatto evidente. Berlusconi era, è e probabilmente sarà padrone di Forza Italia. Che lei voglia o non voglia. Cioè, questa è la realtà. Questa è una realtà che mi permetto di non condividere. Ho capito, però. E cerco di spiegare il perché. Mi dica. Quando lui ha fatto il Popolo della Libertà, ha fatto un partito, ha fatto un'opera dell'ingegno politico assoluta, che poi ha disfatto in maniera incomprensibile. Ma dopo ci ha preso gente come me, democristiani, socialisti, 11 partiti addirittura ha preso. poi ha avuto delle scissioni. Dopo ha detto che il Popolo della Libertà rimaneva come partito, ma che il logo doveva essere cambiato in Forza Italia perché aveva più appeal. Sì. E noi abbiamo cambiato il logo in Forza Italia. Sì. Non è che abbiamo rispolverato la Forza Italia del 93. Vabbè, però Bianconi... Abbiamo preso il Popolo Fermo della Libertà e l'abbiamo chiamato Forza Italia. Sì. Io dentro quel partito ci sto. Nella Forza Italia del 93, se ci volevo stare, mi ci scrivevo. Vabbè, cioè, ma al di là di questi formalismi... Mi rifiuto di pensare che questa Forza Italia abbia una connotazione proprietaria. Tanto più che i soldi non ne mette più. Quindi non li paga, diciamo così. Cioè non... No, ne mette più i soldi. Dunque non ne mette più e dunque non è più il padrone di Forza Italia. In genere il padrone chi paga? Questa è la e da quanto tempo non li mette più? Beh, da mo' che non li mette più. È da tanto, da quando è nata questa ha deciso ha deciso di non mettere più i soldi. Ha ragione, insomma, voglio dire, un partito si autofinanzia. Però dice, siccome non lo paga più, non è più il proprietario. No, siccome la sua genesi, la sua nascita di questa portaglia è differente, non era più un partito suo, diciamo più. In più, ci aggiunge anche questo, ma io voglio parlare di cose spicciole, non di cose brutte. Vabbè, comunque, vai a fare un partito con Doris, questo è il punto. Ma voglio dire, noi stiamo lì a difendere il centrodestra. Ma nessuno, magari cioè... prendiamo la metà dei voti suoi, però difendiamo quelli che ci hanno dato il voto. Un'altra scissione ancora. Ma chi è andato contro Berlusconi? No, la scissione non c'è, perché io mi auguro che ci ripensi tanto e capisca qual è il suo dovere. Ma non ci ripenserà, perché Renzi è una calamita per lui, è una specie di... E allora di... io che devo fare? È una specie di cotta, è una cotta. Bianconi è una cotta per Renzi, è innamorato. Vede, tante volte quando ci sono i mariti, come potrebbe essere il lei se fosse sposato, che pigliano le cotte per i ragazzi, sì. Anzi, per le ragazze, ma lei non fa differenza. Allora, beh, no, io faccio differenza. Bravo, lei fa differenza, no? Beh, sì, per me lo faccio. Male, per me lo faccio. Male. Bravo, Bianconi, non è l'unico che ha capito male. Bravo, che fosse per tutte le ruote, va bene. Allora, lei pensava, com'è che si dice per tutte le ruote? Com'è che dice lei? Per tutte le ruote. Ma non sarebbe un'offesa dire che sono bisex, no, però no, appunto, francamente. Mi piace solo la figa. Omofobicamente si è subito ha precisato. No, a me piace solo. Non si può mai dire. A me piace solo la gnocca. Questo ma è. Però scusate, avendo una moglie, finiamo con questo paragone. E lei prende una cotta per una ragazza giovane, eccetera. La moglie giudiziosa che gli dice: vai con lei, quando sei passata, ritorna. E così si salva il matrimonio e la famiglia. Bene, io vorrei salvare il matrimonio e la famiglia. Ha preso la cotta, ci vada. Poi noi tanto si aspetta. Ah, lei però dice... Ci faccia fare politica, però. È come una... in questo momento Forza Italia è come una moglie tradita. È come una moglie tradita. Gli elettori, tutti. C'è lui, tromba con... Adesso la metto in maniera un po' più volgare, Bianconi. Lui tromba con Renzi. Questa è la sostanza, tromba con Renzi. La moglie è Forza Italia e la moglie si sente tradita, però non rompe, diciamo, no? Non vorrebbe rompere. Vai il tuo Forza Silvio, vai, fai quello... Noi ti aspettiamo, perché senza te andiamo in pochi posti. Ma in queste condizioni veramente ci affoghi tutti. Cioè, continua a trombare con Renzi, però fallo senza coinvolgere. Casa tua, casa nostra, lasciaci per piacere fare il centrodestra, se no... Tutti i voti che ci ha voluto prendere Renzi ce l'ha presi, tutti i voti che ci ha voluto prendere Salvini ce l'ha presi, tutti quelli che non ci vogliono più votare non ci hanno più votato. Beh, ma e Salvini... noi siamo rimasti al 9 e la Lega è andata al 23. Ma Salvini dice le cose. Avete idea di cosa è successo o no voi? Ma abbiamo idea, come non abbiamo idea. Allora, un motivo ci sarà. No, ma assolutamente. Però come si fa a uscire? Cioè, quando una donna, quando a uno piace, diciamo, fare l'amore, ecco, dico io, scopare, trombare quello che è con un'altra, come a Berlusconi piace farlo con Renzi, beh, è complicato tornare con la moglie, con la prima moglie. Noi siamo in politica, siamo di fatto buono, sappiamo perdonare. La politica è l'arte del possibile. A questa cotta, se la sfoghi, ma non rovini la famiglia. Non rovini la famiglia, questo mi sembra una metafora, Parenzo, corretta, no? Io l'ho volgarizzata un po', ma naturalmente. Ma anche l'appello, come dire, accorato, della moglie, cioè, tradita. Fai pure, sfogati, diciamo, no? Sfoga le tue voglie. Lasciaci la famiglia, lasciaci lavorare un po', perché poi sono anche per te, perché quando dirai che avevamo ragione, quando ti sei stufato, fare il presidente e vedrai quanti voti ci trovi. quando ti sei stufato, dici tu, quando esatto. ti sei stufato di però sta dicendo che non capisce nulla, più nulla di politica sostanzialmente Bianconi in questo momento, cioè che Berlusconi non capisce più niente di politica, sì, no, per noi, senso, non gli interessa. No, ha fatto una scelta che è una scelta di uno che ha fatto una scelta che non è, pensa alla sua roba, gli interessi della famiglia Bianconi basta. Pensa alla sua roba, diciamo la verità, pensa alla roba, ma questo lo dite voi, io non mi permetterei mai né di dirlo neanche di pensarlo, un occhio glielo darà, ma non penso che ecco appunto voi. Più di uno, ma se Doris è quello che, vuol dire, che è un po' il metro, no, il cartina di tornasole, quello che dice il signor Doris, che è un socio in affari di Berlusconi, se dice una cosa del genere ci sarà un motivo, no? Vede, io rendo possibile e capisco che in una cena d'affari, in un ufficio, in una stanza separata, Doris abbia il dovere di dargli tutti i consigli che crede e anche il diritto in qualità. Ma anche il signor Confalonieri a favore del Nazareno. Ma non mica fai titoli di prima pagina nel giornale. Lo so, ho capito, ma il giornale. La politica, amico noi mio. Da chi ce la dobbiamo fare imporre? Da chi? Anche da Doris. Pensa alla banca, Doris. Lo so, pensi alla banca. A me non mi insegna niente, non mi dice niente. Signor Doris. C'è proprio un'assenza di rispetto anche della funzione del parlamentare. Ma che gliene frega a Doris dei parlamentari? Noi ci facciamo un po' di culo, sa. Ma Doris considererà i parlamentari dei poveracci, cioè, non è... Lo so, io vedo, stamattina sono andato a fare l'avvocato tutta la mattina, sì. Poi ho preso il treno e sono venuto qui a votare, ho votato tutto il giorno, stasera parlo con lei, di 70 che avevamo, cioè, a votare, io sono di quei coglioni che lavora, vorrei avere qualcuno fa il casting, che vivo... Ti vedo un po' per la politica, ma non di politica. Vorrei avere libertà di pensiero e l'appagamento di quello per il quale l'ha tutta scusi, la vita. Scusi, Bianconi, però per concludere, Berlusconi sta facendo anche il casting, no? Casting di persone nuove. Sì, sono dico alla Toscana, le bischerate che gli piace fare, alle quali non do molto peso, perché dopo se ne rende conto anche lui. Ma questi sono giovani che sono nelle regioni. Il casting lo poteva fare, andava a vedere fra le liste delle regionali se c'era qualcuno che aveva preso qualche migliaio di voti alle liste delle comunali, insomma. Per esempio il sindaco di Perugia è uno che ci vuole il casting per capire, no, certo, che ha avuto successo, perché ha preso i voti, certo. C'è anche un assessore di Prato che voi non conoscete che si chiama Silli, che è uno che sicuramente lo conosciamo bravo. Benissimo Silli, lo conosciamo bene, come no, è uno bravo. Ma quello c'era. C'è anche Bignami a Bologna che è riuscito a fare il consigliere regionale e che è un giovane, avrà 30 anni però scusi là. Bianconi, perché Berlusconi fa fare il casting? Ma le sembra una roba da X Factor, una cosa del genere? Sì, mi sembra umiliante per chi si fa esaminare, per chi esamina e per chi sceglie in questo modo. Cioè non c'è bisogno di fare queste comparsate a Villa Giornetta? No, no, proprio no. Basta. E rendere la politica ancora più ridicola di quello che non sia. Scusa, non essendoci più i partiti, è normale che ci sia questo criterio di selezione ormai. Bisogna cercare di rifare qualcosa che assolutamente... Cioè lei dice andare in massa a baciare la pantofola dell'imperatore a Villa Giornetta o fare questa passerella è una roba umiliante? Secondo me sì. È umiliante anche quello che a quelli che vanno alle cene di Renzi, Quelli mettono i soldi però, scusi, quelli anche peggio, perché pensano che con 1000 euro o 10.000 euro di essersi assicurati la benevolenza del principe, quindi è un mondo, però hanno una certa età, questi sono ragazzi, ecco, io come ragazzo non lo farei. Ma una che cosa, circonvenzione di minorenni, che di minori? No, scherzi, su una cosa così, insomma non si seleziona così il personale, cioè non si va lì a rendere omaggio. Le sue liste, va a fare il consigliere comunale. Ma in passato come era selezionato? Ma non vai a rendere omaggio, dice, non vai a rendere omaggio al principe. E dopo, quando hai fatto quel che devi fare, dice, vorrei conoscere questo, me lo fate conoscere. Sì. Che ha preso ragazzi di bello aspetto. Questi sono bruciati, secondo lei, ormai? No, sono bruciati, li farà tutti i deputati, farà quello che vuole. Però non possibilmente in un partito di centrodestra che funziona come dovrebbe funzionare un partito di centrodestra. Vabbè, Bianconi, arrivederci, grazie. Siete sempre gentili, arrivederci a voi. Ciao, saluti. Ciao, ciao. Arrivederci, arrivederci. Io ascolto la Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al casello di Genova. Beh, duro. Beh, adesso non esageriamo, insomma. Sì, anche. Beh, io vorrei fare una rubrica al giorno, ha detto Valentina Nappi. ha detto Valentina Nappi, una rubrica al giorno, una cosa, qualcosa al giorno succede, ogni giorno succede su Valentina Nappi, no? Beh sì, ho letto altre, come dire, considerazioni. È il mio intellettuale di riferimento in questo periodo. In questo periodo è il mio intellettuale di riferimento. Tu e Micromega avete un punto in comune. No, Micromega, diciamo, non è Micromega, ospita le cose della Nappi, non le fa proprio. Io in alcuni casi le faccio mie, le faccio mie, cioè il mio intellettuale di riferimento in questo momento si chiama Valentina Nappi. Sì. Ciao Valentina Nappi. Mi ha mandato un messaggio Emilio Fede, che saluto, direttore, salutiamo. Omaggio. Ciao. Al direttore. Buonasera direttore. Ti abbraccio fortissimo Emilio. So che un tizio è stato denunciato, da te denunciato, per le telefonate che ti fa, per gli insulti che ti fa. Beh, dopo ti farò ascoltare alcune cose che abbiamo registrato anche noi, eh. Non ti incazzare però. Francesco da Napoli, Francesco. Luciani, buonasera. Dimmi, dimmi. Sull'argomento dei Rom, voglio dire, secondo me c'è molta ipocrisia. Io mi dichiaro, come dire, pubblicamente razzista nei confronti dei Rom. E sono pubblicamente razzista, bene, che sì, vuol non dire? Non che interessi a qualcuno, però c'è, no, un senso. Vabbè, lei dice, sono razzista coi Rom. Dunque adesso i signori di Famiglia Cristiana o qualcun altro diranno, sì, ecco, avete fatto parlare questo, no, che è razzista coi Rom. Prima, però... Sì, lo lasciamo parlare e non ci rompete i coglioni. Francesco da Napoli. Motivazione. Anzi, chiamate, che... chiamate, sono incazzato su questa roba, lo senti, Parenzo, quanto sono incazzato? Lo no? Sento, lo sento. 02 48 071 i signori di Famiglia Cristiana. E dovete semplicemente dire questa frase, popolo della zanzara, noi ascoltiamo la zanzara. Non condividiamo la vostra opinione. No, no, no, grazie. Noi ascoltiamo continuate la zanzara. Con le vostre, no, no, cose, la frase, con le no, grazie. State attenti, la frase è un'altra. Noi ascoltiamo la zanzara, del vostro moralismo del cazzo non ce ne frega no, niente. Ma perché dire per forza? Ma la frase è questa. David, ma la vuoi sapere l'ultima? La vuoi sapere l'ultima? Pensa a quelli di Famiglia Cristiana quando non si parla so di queste cose. Non so se dire sì o no. L'ultima non signora so se Nappi. Dire sì o no. L'ultima signora Nappi. No, ho letto su Dagospia qualcosa, non so viva se viva l'eiaculazione precoce. Ah, no, avevo letto. Allora. Viva i peni piccoli, se non siete bravi a letto è colpa delle fighe di legno che non ve la danno o che fingono l'orgasmo. Beh, amico mio. Però è una grande, è un grande insegnamento verso coloro i quali hanno problemi sessuali. Devo dire che la signora Nappi è una di quelle che invece potrebbe risolvere in maniera molto semplice. Io sono d'accordo con l'amico Giarrusso delle Iene e con altri che vogliono proporre, mi sembra anche il professor Labate, Tommaso Labate, che vogliono, persona serissima che sia, che vogliono proporre Valentina Nappi for premier. Io direi di lanciarlo proprio qui alla zanzara. Non credo che il collega Labate del Corriere. Assolutamente sì, assolutamente Nappi sì. Nappi for president. Sì, Nappi for president, for premier, quello che ah, è Nappi, no, beh, diverso, al Quirinale, però, Nappi al Quirinale. Con due è diverso Quirinale. Amico mio, pensate che sarebbe Nappi, la signora Valentina Nappi che fa una specie di gangbang, un'orgia con i corazzieri, con i corazzieri. Non accadrà, ma se succedesse, amico mio, se il Parlamento impazzisse e facesse, no, che dici? Beh, sarebbe curioso, diciamo. Dunque, devo dire che per coloro che hanno problemi sessuali, la signora Nappi può essere davvero una panacea, non solo sai, perché... Anche lei lo scrive, però bisogna vedere se poi lo mette in pratica. No, certo, però sicuramente essendo è proclamare sì, principi. È hai ragione, però un quando uno dice poi... viva i peni piccoli, basta con l'ansia, dice anche una cosa molto semplice, che non bisogna essere, come dire, angosciati, non bisogna essere no, mentalmente un po' colpiti, non bisogna deprimersi perché uno ha il pene piccolo oppure perché ha l'eiaculazione precoce. È una cosa che può essere positiva, dice la Nappi, può essere positiva, e se lo dice la Nappi bisogna crederle, amico mio. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Vabbè, questa adesso signora Nicchie Rivelli, sì, giusto? Rivelli, sì. Rivelli. Però questa adesso non c'entra, scusa. No, non questa, capisce, questa non c'entra niente. Ha la sua vita sessuale regolare, ha una sua vita sessuale regolare, diversa dalla mia, ovviamente. Ovviamente, questo posso confermarlo. Questo credo. Questo credo. La signor Sibilia in aula. Vuoi sentire la signor Sibilia in aula? Non mi interessa niente. Sì, lo so, niente. Però signor Sibilia. Niente. 5 Stelle, sentiamo. Ricordate sempre che voi siete quelli della Fornero, siete quelli degli esodati, siete quelli che portate in quest'aula onorevole Sibilia. Di merda. Sì, onorevole Sibilia, la prego, grazie. Sono moderati, moderati un cazzo! Eravamo con Francesco da Napoli. Nervosetti lì, Five Stars, eh? Sì, sì. Nervosetti. Ma lei per caso... Dai, vai. Prendeva la posizione della Nappi perché si sente parte in causa? Assolutamente no, non è questo il punto, perché? Ma non sono qui a fare come ha fatto l'amico, l'amico come si chiama, Ruffini, la, l'elogio delle mie misure o cose di questo tipo. Questo non ci sono ancora arrivato, magari lo farò. Come scusa? No, non credo magari interessino molto. No, no, no, sicuramente interessano molto più delle discussioni con il signor Bianconi, su questo non c'è dubbio. Ma mica perché Bianconi, perché potrebbe essere anche un altro. Certo. Il problema è che ancora non siamo arrivati a questa asticella, magari ci arriveremo durante l'anno. Però, Francesco, dimmi. L'argomento era i Rom. Io dicevo, io sono un razzista nei confronti dei Rom, ma con un motivo, non perché mi sono antipatici a pelle, perché l'economia dei Rom si basa su un principio, sull'elemosina, e i genitori fanno tanti figli perché i genitori chiedono il pizzo ai figli sulla loro elemosina, finché non fanno un numero sufficiente di figli per campare di rendita con l'elemosina dei figli. E a me un popolo che basa la propria economia sfruttando i propri figli mi fa legittimamente schifo. E quindi io sono razzista nei confronti dei Rom. Questo è il mio punto di vista. Sei razzista nei confronti dei Rom perché sfruttano i piccoli, cioè sfruttano i bambini, cioè fanno i figli solamente per spillare soldi. I genitori si prendono tipo il 90% dell'elemosina dei figli e fanno tanti figli finché quel 90% non gli basta per campare di rendita e non fare più niente, non chiedere neanche l'elemosina, manco si sforzano di andare a chiedere l'elemosina perché campano di rendita. E per me un popolo così non merita rispetto. Cioè, se mia figlia uscisse con un Rom, io spezzerei le gambe a mia figlia e a Rom. Addirittura spezzeresti le gambe a tua figlia? Ecco. E lei no, Cruciani. Ma no, spezzare le gambe no. Spezzare le gambe no. Non sarei contento, l'ho detto, non sarei contento. No, no. Assolutamente rispondo a quel sondaggio. Non, che non hanno dignità, la dignità si basa non hanno dignità. Valori. Non hanno dignità. Per avere dignità devi avere dei valori. Cioè, è come dire se tua figlia esce con una persona dichiaratamente nazista. Che fai? Parenzo ha detto un'altra cosa, detto che non lo trovo neanche possibile, perché non è possibile, quindi è una cosa inconcepibile. Poi magari un giorno cresce, cambia idea. No, Parenzo, perché è cresciuta con valori. No, amico mio. Mi dispiace. Però alla grande un incontro tra questi due personaggi. Il primo è Paolone Bocedi. Allora, Paolone Bocedi è il presidente di un'associazione anti-racket che abbiamo avuto ospite nei giorni scorsi. Vi dovevo una cosa, popolo della Zanzara, ascoltatori di questa trasmissione, cioè vi dovevo una di nuovo l'ascolto di queste frasi. Direi che è un tipo da Zanzara, mi sembra, Paolone Bocedi, che dici? Beh, assolutamente, promosso sul campo, così inaspettato devo anche Paolo dire. Paolo Bocedi, difensore di Corona, ma questo in questo istante non conta, difensore di Corona, presidente di un'associazione anti-racket, il quale si è esploso su che cosa? Sulle dimensioni del suo pene, ragazzi, tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Ma no, perché mi hai chiamato Paolone prima? Perché ormai solo gli amici mi chiamano Paolone, come mai? Che te frega? Perché? Perché gli amici lo sanno. È come Merolone, come Paolone, ma che te frega? Cioè, scusa. Stasera sono andando a Varese da Badoglio, che è uno dei miei simpaticissimi, che è un locale, mi dicono, come andare a verificare da vicino, che è pieno di buchi. Glory hole, glory qualcosa del genere. Mi hanno detto che ci sono delle... Cioè, marito e moglie, il marito... C'è un cabellino piccolino, il marito fa sedere la moglie e dall'altra parte c'è un uomo che ci infila l'uccello dentro queste cose. Io non ci passo sicuramente, perché tu ci balla sicuro, il mio non ci passa, te lo posso garantire. Io non posso fare il bagno con quel costume che metti tu sicuramente, è un dono di natura. No, ma crea dei problemi quando al mare devi sempre stare pancia in giù e poi sai, non puoi pensare a nulla che magari si vede, sai, è anche imbarazzante. Pensa quando sei nelle aule di tribunale. Non esagerare, dai, sarà una cosa normale, dai, allora? Anche normale, ma siamo sopra. Vabbè, allora, sopra che? Sopra i 25, no? Un po' di più, dai. Ma di dai, Bocedi! Ma ti dico di sì, cazzo! No, guarda, se eri qua te lo tiravo fuori, poi impari a rompermi i coglioni. Ma sì, siamo per solo sede, ma tu mi provochi, Paolone, ma che te frega di Paolone, ma scusa, ma... Tipi da Zanzara. Paolo Bocedi. E qui invece le frasi cult di Valentina Nappi. Almeno tutte le donne dovrebbero provare che cos'è una dipiglio, che cos'è una gangbang. Tutte le donne dovrebbero provare. Può scopare per ore e ore e ore di fila, basta cambiare il partner. Ti fai male quando caghi, non ti fai male quando caghi, ti piace quando caghi, è la stessa cosa quando entra. Le frasi cult di Valentina Nappi. Vabbè, dove andiamo? Andiamo a provincia di Siracusa. Antonio, buonasera. Cruciani, vai. Allora, io ho chiamato perché ho visto e ho notato che ascoltando i tre giorni a te ti stanno un po' antipatici quelli della Lega, forse per le battute che dicono. No, veramente, veramente no, comunque forse a Parenzo, a me no. Allora a Parenzo sì, però voglio dire, in fondo poi sì, c'è qualcuno che esagera, qualcuno vuole mandare nei demo valorizzatori, insomma Iron, e poi qualcun altro vuole dare in pasto ai maiali. Il fatto sta che c'è un dato di fatto che questi prendono voti non solo poi in Lombardia, solo la Lega Lombarda, ma in Piemonte, vabbè, allora... in Veneto, in Sicilia. E allora questi qua saranno un grosso partito di centrodestra, quindi... cioè non bisogna trattarli come se sembrano dei Ron, a mio avviso. Ma chi li tratta così? Parenzo ha detto una cosa prima. Parenzo ha detto che se sua figlia andasse con uno della Lega lui darebbe fastidio. Ma la trovo anche impossibile come ipotesi. Ma perché è impossibile? Perché è impossibile? All'antirazzismo, a una serie di valori. Trovo impossibile che si possa innamorare di persone che hanno comportamenti diversi dai valori che le ho trasmesso. Ma una roba incredibile. Ma mi sembra questa cosa incredibile. Ma che tu non insegni valori ai tuoi figli? Sì, ma insegno valori, ma non insegno, certamente non, io non insegno l'antileghismo, insomma, su questo voglio non c'è dubbio. L'antileghismo, beh, sì, però gli insegno, beh, che diciamo i migranti non fanno tutti schifo, che non vengono qui a portarti via il lavoro. Sicuramente si innamorerà di un leghista, guarda, che i bambini con cui lei è in classe, che sono per il 60% stranieri, in particolare rumeni, albanesi, eccetera, non sono dei criminali. Sicuramente. Li invito a casa quando il sabato e la domenica ogni tanto sono con. Quindi voglio dire, questo è quello che lei insegna. Sicuramente. Quindi si trovo... finanzierà con un leghista. Ma non, non c'è credo, minimo dubbio. È un'ipotesi che Francesco guarda, non... da Roma. Francesco non ci sarà neanche Roma. Più la Lega quando lei si fidanzerà. Ma come? Francesco da Roma. Sarà la Le Pen. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. I nipoti della Le Pen ci saranno. Vai. Allora, io mi incido innanzitutto sulla Nappi, che pure è presidente della Repubblica, potrebbe diventare proprio un tutore. E poi volevo fare un commento sull'intervento di Bianconi prima, proprio due parole. Due palle. Cioè, esco dall'università, me voglio sentire una pippa sul Berlusca del 2015. Vuoi? È uno di quelli che dice che Berlusconi deve andare via da Forza Italia e lo chiamiamo al telefono. Che dobbiamo fare? Dobbiamo parlare sempre di cazzi, di scopate, di cose di questo tipo? Di che dobbiamo parlare? Spiegami. No, le cose un po' più pratiche, un po' più vicino magari a chi vi ascolta. Tutto per esempio? È una critica. Suggerimenti, avanti. Ecco, volevo infatti chiedere un commento a Parenzo sull'agguato che hanno fatto, non so se conosci l'Ardita. La conosci, scusami? L'Ardita. Sì, ma queste cose le va benissimo, per carità, c'è stato un agguato da parte di gruppi di estrema destra nei confronti di tifosi di una squadra che è più o meno di sinistra, degli ultimi, diciamo, di una settimana fa, va bene, ma è una cosa che riguarda una cosa che riguarda Roma, certo. Solo Roma, cioè non è una cosa che riguarda tutta Italia, cioè. Beh, è vero che riguarda solo Roma, perché è stata fatta a Viterbo da Catania. Vabbè, allora la tua riflessione su questo qual è? Su questa aggressione, su queste robe qua? No, più che riflessione, cioè che secondo me è un episodio molto molto grave, perché in una situazione in cui il calcio ha davvero tantissima importanza, certo, bravo, a livelli bassissimi si arrivi a una cosa così sporca da squadraccia, bravo, del 38, è ridicolo, cioè. Beh, vabbè, benissimo, siamo d'accordo tutti che picchiare un'altra persona è grave, non c'è dubbio, siamo d'accordo tutti che esistono delle bande. Se come motivi usi una partita di calcio è qualcosa di positivo, secondo me, al di là della politica, è un po' ridicolo, cioè è grave, cioè, secondo ho me capito Francesco, ma noi non possiamo fare una trasmissione dicendo che è grave, magari se qualcuno di quelli che hanno aggredito ci facesse la gentilezza di venire al telefono, ma non verrà. Buonasera, allora siete due facce di merda, ovviamente. The dawn, love him till the morning. signor Mauro da Mantova. Signor Mauro da Mantova. Però ha una voce, è una voce attraente da un certo punto di vista, no? Parenzo, che dici? Ha una voce da una persona disturbata, dice. Credo. Ma che culo! Siamo nel caculo! Luciani, sono nel caculo! Questa era per me. Credo, poi non lo so, mi sembra, poi sai, non voglio infierire un'opinione. Allora, un rom in una trasmissione, cioè adesso intervistano i rom per un periodo. Ma i rom, anziché poi, appunto, l'intelligenza, anche sti rom, si facessero furbi questi, perché vi fate intervistare amici rom e dite sì andiamo a rubare? Ma scusi, ma state più furbi, no? Cioè è questo che mi manda i matti, perché tutti sanno dove sono, amici cosa fanno, rom. E poi gli metto il microfono e dice lei qualche volta ha rubato, l'ho fatto anch'io. Se l'ho rubato, certo, ma amici miei, ma anche voi, ma siete peggiori nemici di voi stessi però, scusa. Senti questo che dice, anziché rubare chiedo l'elemosina, signor Rob. Capisci che, ma sono senza lavoro, senza una casa, adesso per mantenere mia figlia, mia moglie, devo fare una cosa, anziché rubare preferisco umiliarmi e chiedere l'elemosina. Poi un altro dice, in Romania ci sono, forse lo stesso, in Romania ci sono leggi troppo dure, meglio vivere qua, e te credo, e te credo amico mio. Lì sono le leggi più forti che qua. Lì se vai a lavorare nero vai, sono le mute che sono difficili. Se una persona non ha una casa è difficilissimo vivere in Romania, proprio ti conviene vivere qua in queste condizioni anche in Romania. Tu capisci poi perché la gente si incazza, no? Ma certo. Perché in Romania uno non può vivere come vivono i rom da noi. Cioè, sostanzialmente così nell'anarchia più totale. Cioè, non lo permettono, non lo consentono. Uno ma in Italia in Francia, dice. Oh. E uno dice in ci Italia. Ci sono campi rom in Francia, a Parigi, fuori dal centro. Però su. La gente si incazza, la gente si incazza. Ma è normale, ma fate qualcosa, ma non continuate a dire criminali, tutti criminali. No, perché... molti. 02 48 071, noi ascoltiamo la, dovete fare questo numero, Famiglia Cristiana Centralino, noi ascoltiamo la, pronunciare questa frase, noi ascoltiamo la zanzara del vostro moralismo del cazzo, non ce ne frega niente. Noi ascoltiamo la zanzara, grazie. Siamo ad alti livelli qua, eh. Provincia di Biella. Ah, buonasera. La mia è un'annotazione che riguarda il signor David Parenzo, visto che David ultime... però. Scusi se preciso. David e David Gnomo, io mi chiamo David, grazie. Mi scusi tanto. No, poi adesso io ho lavorato con tutta la vita con personaggi ebrei e sono stato molto ma felice. Non è... Bene, fa piacere. Evviva. Ma per carità, perché però volevo aprire una sottoscrizione, visto che da quello che risulta dai giornali, lo Stato di Israele abbia proclamato uno Stato religioso. C'è una, un po' diverso, ma insomma, questo, vabbè, che c'entra adesso, Dino? No, cosa c'entra adesso? C'entra nel senso che io aprirei una sottoscrizione per mandare il signor David o David. No, David, poco male. Lei come si chiama di nome, scusi? Come? Come si chiama io lei? Io mi chiamo Dino. Dino. Io Dino. Se la chiamassi Dino. Lei cosa direbbe? No, mi chiamo non Dino. Non mi creerebbe nessun problema. No, ma infatti, di no da Biella, di no, dica di no. Allora, di no. Si può fare le franseglie, fa problema. Appunto, in ogni caso, io aprirei una sottoscrizione, sono un povero pensionato, no? Per un biglietto di sola andata, per combattere questa decisione che secondo me è folle. Ma quale? Quale decisione? La decisione del governo di proclamare uno Stato religioso ebraico. Non è esattamente così. Comunque va bene. Mi sono sbagliato. Se vuoi la spiego, ma è diverso. Male. Va bene. Sentiamo Filippo da Vicenza, poi fatemi quel numero, Filippo da Vicenza, vai. Ciao Giuseppe, eccomi ciao, qua. Ciao, dimmi. Ciao. No, volevo parlare a David Gnomoli. Sì, David Parenzo, come si chiama questo? Bellissimo il David Gnomo. Come si chiama questo qua? Filippo, signor Filippo. Filippo da Vicenza. Digli tu chi sono, Cruciani, digli chi che sono. Ne so chi sei, mica c'ho la palla di vetro. Allora, perché Parenzo adesso negli ultimi giorni è ossessionato da Riccardo da Roma. No, ma ossessionato mi pare un po' eccessivo. Dice che siete dei perdigiorno, tu sei il presidente. Sì, continua a dire che siamo brutte persone. No, brutte no, perdigiorno, simpatici, perdigiorno. Uno che sta tutto il giorno su Facebook è un perdigiorno per me. Anche brutte persone. Comunque noi, intanto tu perdigiorno, tu non sai cosa facciamo noi nella vita. Ma lo vedo dagli insulti di Facebook. Ma noi sappiamo benissimo cosa fai tu, che fai l'Emilio Fede del PD e vai a prostituirti in qualsiasi televisione a mendicare La parola prostituirsi è vagamente diffamatoria, visto che quando vanno ospiti... Vagamente diffamatoria, visto che qua vabbè, ma qual è il punto, Filippo? Visto che quando vado ospite non prendo una lira, ergo, querela per diffamazione, perché sennò devi dimostrare. Mi fai parlare. Prima ti annuncio sì, la querela. Ti rifaccio la casa, Parenzo. Sì, ti rifaccio la casa, il giardino, il tetto e tutto quanto. No, il giardino non ce l'ho. Fammi parlare. Però l'imbiancatura sì. Sì, ecco, dai. Comunque, allora ritiri che io prendo soldi quando vado ospite in televisione, perché quella è... Più ci sfotti, quella è una più querela. Ci sfotti, più noi cresciamo. Siamo 2500. E allora non ne parlerò con più. Di Cruciani, con l'appello di Cruciani adesso gli centralini di Famiglia Cristiana sono in tilt, perché ovviamente abbiamo mobilitato... Non avete nulla da fare. Questo è buono, questo è buonissimo. Non avete nulla da fare, ti rendi conto o no? Ma sono i tuoi ascoltatori. Avete pure soldi per telefonare, non avete niente da fare. Parenzo, sono i tuoi ascoltatori. Allora, questi qua non condivido quel che fanno. Noi sappiamo cosa fai tu. E piuttosto di fare quello che fai tu, preferisco fare il perdigiorno. Hai capito? Vabbè, adesso Riccardo questa... da Roma Fans Club. Un'altra cosa, comunque, Fini. L'ultimo, poi vi saluto. Renditi conto che comunque Cruciani sta dalla parte nostra. Con tutto rispetto per le autorità religiose, civili e militari, tu non conti un cazzo. Ognuno ha i sostenitori che merita. Cruciani con noi si è divertito moltissimo. E se invece passava la serata con te, si rompeva i coglioni. Già ti sopporta pochissimo. Quindi tu non conti un cazzo, quindi alla fine abbiamo vinto noi. Va bene, abbiamo vinto. Aspetta, dai. Ciao. Abbiamo vinto noi. Dialettica, se qualcuno mi dice ti vengo, io dico ti vengo giusto per mantenere un minimo di rispettabilità, anche se ormai si è persa completamente. Allora, aspetta Parenzo, è l'uomo tuo, eh? È il tuo uomo, eh? Cos'è? Vai, Iezzi. Sì, pronto. Igor Iezzi. Sì? Qui è la Zanzara. Ah, ciao. Togliti. No, guarda Igor, è Parenzo che ti voleva parlare, io non c'entro niente. Chiamalo immediatamente. A me non me ne può fregare di meno, se hai fatto una cosa l'hai fatta benissimo. Una baracconata. Ma perché ha fatto un'azione politica mettendosi burca? Qual è il problema? Non ho capito, che significa la baracconata? Perché devi offendere... Vabbè, parlaci tu. No, voglio capire questo, Iezzi. Sta baracconata che hai messo in piedi oggi, visto che col burca, prendendo in giro le persone, offendendo come al solito la religione islamica, perché, l'ha fatto perché contrario a stabilire dei luoghi di culto a Milano. No, ma quello che dice, io paradossalmente sono d'accordo con Parenzo, cioè quindi il burka è una baracconata e un'offesa alla religione islamica. Ma è una baracconata da presentarlo così? Ma chi è che gira col burka tutto coperto? Chi è che saranno due in tutta Milano? Neanche passa a Milano e te ne accorgerai. A Milano girano tutte col burka. Guarda, no, tutte no. Ma dov'è che vivi? Sì. Molte persone girano col burka. A differenza tua, io vivo a Quartogiaro, che è una periferia di Milano. Io penso che la gente gira con, a parte che non era burka, ma era il niqab, quello che mostra solo gli occhi. Nella mia versione era un po', però diciamo, voleva rappresentare un niqab e non un burka. Ma tu perché è servita la baracconata? Se tu giri nei mercati, sì, Milano, sembra di stare dove? Alla Mecca, c'è una differenza tra sì, a volte sì. C'è una differenza tra sembra di stare alla Mecca. Sì, esatto. E tra loro e me c'è una differenza, che io l'ho potuto togliere, loro non possono. No, guarda che molte donne, quello lì in verità, se lo tengono perché pensano, certo, secondo me è sbagliato, ma non sarai certo. Tu Iezzi a fargli togliere il burka, caro amico, ma mio, con la baracconata di oggi. Non ho mai pensato di far togliere il burka a tutte le donne islamiche. Al di là del burka, Igor, le donne islamiche si liberassero da Igor burka. Iezzi, Lega Nord, qual è il, al di là della questione del burka delle donne, qual è il significato dell'aver indossato il niqab? Il significato è che oggi si discuteva di un bando allucinante della giunta Pisapia che vuole regalare, perché secondo me si tratta di un regalo, se volete spieghiamo perché, due aree di culto, certo, agli giusto, islamici. Giusto, e questo giusto. Secondo me è una follia. Secondo Parenzo è giusto, perché bisogna dare degli spazi per pregare, certo, anche altrimenti pregano per strada come hanno fatto per anni governati dal centrodestra, dove si lamentavano degli islamici che a Viale Jenner, ma non è Radio Milano questa, ma insomma Viale Jenner è diventata simbolo in tutta Italia degli islamici che il venerdì sera, non avendo un luogo di preghiera, si stendevano. Ragione, quindi tu a Viale Jenner vuoi dare una moschea? Assolutamente sì. E tu lo sai che in Viale Assolutamente Jenner è stato arrestato un imam? Certo, ma non è che li fermi così. Li controlli, quindi, ma non li fermi. Tu, ma a questa gente vuoi dare una moschea? Sì, lui vorrebbe, diverse moschee a Milano. Ma io vorrei certo, moschee ovunque, vuoi dire. Cioè, ovunque, magari no, ma moschee sì, perché no? Trovi quanti ne vuoi di moschee. E quelli che stanno qui e lavorano per mungere le tue vacche padane, dove li metti a pregare? Quelli che vanno nelle stalle di Sondrio a mungere le vacche padane, dove li mandi a pregare poi? Ma guarda chi, allora guarda. No, ti chiedo, così. Voi di sinistra che partecipate, ma di sinistra un corno, ma voglio chiederti dove li mandi, ma a pregare? Fai bene a vergognarti. Scusami, allora, Igor voi, mio, la mattina i musulmani ti fanno piacere quando la mattina alle 5 lavorano nei cantieri o mungono le vacche dei padani. La sera quindi, però non devono pregare. In nero, quindi tu sei contento che gli islamici lavorino? No, non sono contento per niente. Li pagano gli imprenditori, sono gli imprenditori del nord che li lasciano a nero, Tua, ma io manco li difendo. Senti Igor, un'ultima cosa, sai che Parenzo ha detto che non vorrebbe mai che sua figlia si fidanzasse con non un leghista? Ti dispiacerebbe, non accadrà mai. Non accadrà mai in più, metti pure il carico da 90. Ma ti dispiacerebbe, non accadrà, dai. E non vorresti che preferisce che sua figlia si fidanzi con un islamico che le mette il burka con un rom, ma figuriamoci. È una cosa pazzesca, hai detto, di un razzismo. Il razzista sei tu, Parenzo. Credo che sia tecnicamente impossibile. Se tu insegni dei valori e trasmetti dei valori, credo che ma sia che, ma mica sono degli alieni, è gente normale. Ma che vuol dire ma gente normale? Ma Iezzi è una persona normale. Io lo conosco da 20 anni, mi è anche simpatico. Non condivido, ma mi aiuti a dire dunque, nulla. Dunque se tua figlia si mette con Iezzi ti dispiace? Con chi, scusa? Metti che si mette con Iezzi. Io sono a parte che ha 7 anni e se lo fa lo denuncia la procura. Stiamo parlando di una figlia ipotetica, ovviamente. Figlia ipotetica, mi butto nell'ambro e nel naviglio. Se si mette con Iezzi. Sì. Cioè, Igor, rispondi per favore a Parenzo. Rispondi a Parenzo. Io mi metterei con la figlia di Parenzo. Devo dire, avrei delle difficoltà a passare il Natale in famiglia. Ecco, anche perché non lo faresti il Natale a casa mia. Non lo faresti perché per ragioni anche religiose a casa mia il Natale no. Te lo fai a casa tua tranquillamente, facendo il Natale padano al posto dei re magi ci metti l'Umbert, ci metti il Po al posto del fiumiciattolo di Betlemme, metti il Matteo. Sono sicuro di una cosa, mi auguro che Parenzo, a differenza di tanti islamici, non mi vieterebbe di fare il presepe. Ma perché può fare tutti i presepe? Ma stai scherzando? Ma io sono per la islamici ci vietano, ragazzi, di fare comunque il sarebbe stupendo. Anzi, un'ipotetica figlia di Parenzo insieme a Igor Iezio, insieme a qualcuno della Lega, sarebbe da suicidio assistito, eutanasia legale ora, subito, eppure finirà così. Guarda, ciao Igor, andiamo ad Asti. Edoardo. Ciao, dimmi. Io volevo sapere, parlate sempre del problema dei Rom, che ovviamente è un problema, però che cosa proponi, Cruciani? Li fai deportare? Io? Smantellamento dei campi Rom immediatamente e ognuno si cerca la casa come se la cercano tutti, con le agenzie immobiliari oppure privatamente. Punto e basta. Non esistono luoghi, come dire, zone franche, non esistono campi con le baracche, non devono esistere. Questo lo dico anche per la dignità dei Rom stessi. Beh, allora quindi tu però gli dai le case popolari, perché non è credibile che tu dica si cercano la. ti cercano la casa loro, è se anche possono. No, domani, no, ma certo, ma io, non c'è dubbio, se hanno come dire soldi per affittare una sai casa, che ci sono italiani come che tutti, dormono in macchina, come lo tutti, sai, no? Ma pazienza, ci saranno sempre pazienza. Quelli che dormono in macchina, amico mio, purtroppo quindi, non dovrebbe essere così, dormono nelle ma ci saranno e purtroppo italiani dormono in macchina. E le baracche non devono esistere, se ci e sono le baracche in macchina e sono in più ci sono alti tassi di criminalità, quella roba lì va smantellata, punto. Ma non vanno fatti i campi rom attrezzati, perché è un abominio, perché non vengono fatti i campi attrezzati per i poveri allora? Perché per i rom sì e per i poveri italiani no? No, ma cioè, infatti per i poveri è una follia, ma è la follia l'idea del campo rom attrezzato. Campo rom attrezzato non deve esistere, deve esistere uno che si cerca la casa in maniera normale, come tutti, come faccio io, come fai tu, come fa il signor Pietro Lacorte, come fa il signor Riccardo Buccero, gente, il regista della trasmissione. Riccardo Buccero, d'accordo, gente che lavora, si fa un culo così e non vuole che i rom invece abbiano la casa gratis o che comunque vivano alle spalle degli altri. Riccardo Buccero non dirà mai cose simili. Ci sentiamo domani, non me ne frega niente, se non lo dice lo dico io. Ci sentiamo domani alle 18:30, non mi fare incazzare su questo, ciao. Non lo dice Buccero. E non lo dirà, che ti devo fare? Non lo dice perché è per bene. Vabbè, ciao, ciao. Ciao Crucials! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Radio 24. La passione si sente.